Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Non ha mai sentito questa sigla. Che le amiate o meno, le soap opera come Beautiful, Sentieri, Tempesta d'amore hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Anche le italiane Un posto al sole e 100 vetrine contano appassionati che non si perdono una puntata. La cadenza giornaliera, una struttura narrativa che richiede una visione costante, la trama appassionante, ricca di colpi di scena, rendono questo genere seguitissimo. Esistono soap nel mondo che vanno avanti da decenni. Sentieri, ad esempio, che detiene il record di longevità, nasce niente meno che nel 1937 come programma radiofonico, passa in televisione nel 1952 e ha mandato in onda la sua ultima puntata il 18 settembre 2009. Era la numero 15.762. In 72 anni di storia, questa soap ha lanciato decine e decine di attori e ha visto anche la partecipazione di interpreti molto famosi, da Christopher Walken a Mira Sorvino alla mitica Joan Collins. Sentieri narra le vicende del reverendo John Rutledge, una vera e propria guida morale e spirituale per gli inquieti abitanti di Five Points, sobborgo di Chicago. Il reverendo tiene una lampada sempre accesa alla finestra del suo studio come segnale per chiunque abbia bisogno di aiuto o di un consiglio. Da questa sua abitudine deriva il titolo originale, Guiding Light, la luce che guida. In Italia la soap debutta su Canale 5 nel 1982 con il nome Sentieri, dal titolo della sigla, una canzone interpretata da Tony De Rosas. Il cast italiano dei doppiatori vanta i migliori esponenti del settore. Ad esempio, Riva Shane, una delle protagoniste femminili, è doppiata dalla bravissima Lella Costa. Ecco come parla l'attrice di questa sua esperienza. Ma dicono, guardi, lei, signora Costa, lei è bravissima, uno spettacolo meraviglioso, se lo sa, proprio bello, bello, bello. Però io volevo saperle, ma la Riva, ma torna con Josh? E in genere lei torna, anche perché è un archetipo narrativo della fiction contemporanea. Riva ha sposato più volte, è un'antesignana di Brooke Logan di Beautiful, ha sempre sposato a turno i membri, perdonatemi l'involontaria volgarità, della stessa famiglia, tutti, padre, i figli, li ha sposati più volte. Quello che racconta Lella Costa è la conferma dell'interesse, spesso morboso, che moltissime persone nutrono nei confronti delle soap e dei loro protagonisti, che tendono a confondere con personaggi veri in carne ed ossa. Si tratta di un fenomeno tra i più rilevanti nel panorama delle produzioni televisive, che quindi rappresenta per gli investitori pubblicitari una fonte sicura di contatto con il pubblico. Ma vi siete mai domandati perché questo genere televisivo si chiami soap opera? Cosa c'entrano le intricate vicende che raccontano con il sapone? Anche se è da considerarsi un genere assolutamente leggero, la soap opera ha nel corso del tempo un'evoluzione non indifferente. E oggi si può dire che si rivolga a un pubblico eterogeneo e piuttosto ampio. Ma ai suoi albori nasce solo ed esclusivamente per le donne. Negli anni 30 la società americana ha ruoli ben definiti e quello della donna è molto chiaro. È la mamma, la cuoca, la responsabile della casa e in quanto tale anche la responsabile degli acquisti casalinghi. È lei che fa la spesa, che sceglie i cibi più adatti ai suoi cari ed è sempre lei che acquista i prodotti per la pulizia. Se si vuole far conoscere un determinato prodotto a un vasto pubblico femminile, in quegli anni non c'è altra scelta. Ricordiamo che le trasmissioni televisive ancora non esistono. Negli Stati Uniti arrivano nel primo dopoguerra. Ma c'è la radio. È un passatempo per le donne intente alle faccende domestiche, una grande compagnia mentre i mariti sono al lavoro e i figli a scuola. In quegli anni vanno molto i radiodrammi. Si tratta di un genere amatissimo che conta un numero elevato di ascoltatori, in particolare donne. Il primo della storia risale al 1922. L'emittente è la WGY della General Electric di New York. Si tratta della commedia The Wolf di Eugene Walter, che scatena un interesse impressionante. Nel giro di pochi giorni l'emittente riceve oltre 2000 lettere entusiaste. Tra le varie, quella di un ascoltatore di Pittsfield, nel Massachusetts, che racconta un aneddoto. Le urla di uno dei personaggi, Hilda, risultano così veritiere da spingere il poliziotto di quartiere a sfondare una finestra di casa sua, credendo che si tratti di un'aggressione vera. Il successo di questi radiodrammi è tale che non può passare inosservato ad alcuni produttori di saponi e detersivi, il cui intento è far conoscere a più donne possibile i propri prodotti. Questi signori hanno un passato importante alle spalle. La loro azienda è stata fondata dai nonni. Il loro stile, la capacità che li distinguono da tutti i concorrenti, sono un'eredità assolutamente distintiva, che arriva da molto lontano. A Hereford, capoluogo della contea di Herefordshire, nella regione delle West Midlands britanniche, agli inizi del 1800, esistono solo due professioni che permettono alla gente del luogo di vivere decorosamente. O coltivi le mele per farne il sidro, o allevi bestiame. Non c'è molto da scegliere in una regione prettamente agricola. Eppure c'è chi si sa industriare lo stesso. Il figlio di un allevatore di pecore, poco più che un ragazzino, si inventa una professione nuova, il venditore di lana. Nel suo paese in quegli anni non esistono praticamente negozi, se non quelli di generi alimentari che vendono un po' di tutto, dalla carne essiccata ai fagioli, dalla corda alle pezze di stoffa per farsi i vestiti. Il nostro giovane però è convinto che la lana delle sue pecore possa essere tranquillamente lavata e filata, per poi farne maglioni, cappotti, coperte e ogni altro genere di manufatto che serva a scaldare la gente nel freddo e umido clima della loro contea. Potrebbe apparire un fatto normale, ma per quegli anni e in quei luoghi è una grande innovazione, guardata anche con notevole sospetto. Sono in molti a osteggiare il ragazzo. Gli dicono di lasciar perdere, di fare quello che da sempre hanno fatto i suoi avi, semplicemente allevare le pecore e vendere la lana ai mercanti che vengono da Londra. Ma lui, che ha studiato e sa leggere e scrivere, è nato col pallino degli affari. Perché, si domanda mentre tosa le pecore, perché vendere a un prezzo ridicolo la lana grezza ai mercanti e poi dover comprare quella lavata, cardata e tinta a un prezzo esorbitante, facendo guadagnare fior di quattrini agli altri? Ci sono tanti disoccupati, gente che guadagna una miseria. Perché non realizzare a Hereford una piccola industria della lana? La storia ci insegna che purtroppo chi è avanti rispetto a coloro che gli stanno intorno è destinato ad avere vita difficile. Il nostro giovane ha dei buonissimi propositi, ma non viene compreso dai suoi compaesani. Prima subisce un furto di tutta la lana che ha nel suo negozio e dopo pochi mesi un incendio doloso gli distrugge tutto. Mentre si aggira tra le ceneri di quello che doveva essere il suo futuro, il ragazzo prende una decisione irrevocabile. Se a casa sua non lo apprezzano, andrà dove la creatività e lo spirito imprenditoriale sono considerati. Con gli ultimi soldi che gli restano, compra un biglietto per l'America. Allo sbarco sul suolo newyorkese, a Ellis Island, nel 1830, soltanto un mese dopo l'incendio, l'ufficiale sanitario che gli pone il visto sul documento legge il suo nome, William Proctor. William Proctor. Prima che l'ufficio immigrazione di Ellis Island fosse aperto, c'erano pochissimi controlli. Da un certo punto di vista, non avevi bisogno di nulla. Come ricorda Barry Moreno, storico del Museo dell'Immigrazione di Ellis Island, entrare negli Stati Uniti in quegli anni è facile. Solo dopo il 1921, a causa dello spaventoso flusso di immigranti, il governo degli Stati Uniti ordina un giro di vite nei controlli, che si fanno decisamente più severi. Ma quando il giovane William Proctor, subito ribattezzato Bill dai compagni di viaggio, arriva sul suolo americano, è tutto più semplice. E lui, pur sprovvisto di un lavoro e della possibilità di mantenersi, diventa un cittadino di New York. La sua disoccupazione dura ben poco. È un ragazzo sveglio e non fa fatica a trovare lavoro presso un laboratorio di candele. Non ne sa molto di paraffina, cera, soda caustica, stoppini e coloranti, ma è uno che impara in fretta e diventa subito bravissimo. Conosce anche una ragazza, Marta, che lavora nello stesso laboratorio. I due si innamorano e si sposano. Bill è felice mentre fa le sue candele. È convinto che questo non sarà il suo lavoro per tutta la vita, ma intanto si dà da fare. L'incendio del negozio di lane è ormai un lontano ricordo. Nei primi decenni dell'Ottocento, gli emigranti che arrivano negli Stati Uniti tendono a fermarsi a New York. Una piccola percentuale, però, si sposta verso ovest, specialmente in California. È una terra bellissima, fertile, il clima è meraviglioso e attira gente di ogni genere. E poi incominciano ad arrivare le prime notizie sui giacimenti auriferi della Sierra Nevada. Di lì a breve inizierà la corsa all'oro californiano, come ricorda Joanne Levy, autrice del libro They Saw the Elephant. Non fu una persecuzione religiosa, non fu una persecuzione politica. Si trattò di un'inflazione di persone che emigrarono da ogni parte del mondo solo per avidità. Anche Bill e Martha decidono di partire. Il loro spirito pionieristico non può bloccarli in una fabbrica di candele di New York. Ma un terribile imprevisto li attende dietro l'angolo. Arrivati a Cincinnati, in Ohio, Martha si ammala di colera. Bill, costretto a fermarsi per le lunghe cure mediche, decide di sfruttare quello che ha imparato e di aprire un negozio di candele. Gli affari vanno a gonfie vele e quando la moglie purtroppo muore, lui si è ormai ambientato lì. Tutto sommato quel lavoro non gli dispiace affatto. Le candele sono un prodotto molto usato in quegli anni in cui l'energia elettrica non illumina ancora le case. Bill Proctor è intento a colare cera in alcuni stampi nel laboratorio che si trova nel retrobottega del suo negozio, quando sente suonare il campanello della porta d'ingresso. È entrato un cliente, meglio, una cliente. Oramai sono alcuni anni che passa le sue giornate in quel luogo. Gli è diventato familiare e nel quartiere conosce quasi tutti. Si trova però davanti una ragazza sconosciuta. È Olivia Norris. Per i due giovani l'incontro è un vero colpo di fulmine. E di mezzo non c'è solo l'amore. Il destino ha nascosto dietro al sentimento il suo obiettivo. Dopo una breve frequentazione, Olivia invita Bill a cena a casa sua. Vuole presentargli il padre Alexander, sua sorella Elizabeth Ann e il marito di lei. Mentre le due donne preparano la cena, Bill ha modo di conoscere quello che presto diventerà suo cognato. Anche lui ha da poco passato la trentina. Fa il saponaio. Non è un lavoro tanto difficile, come racconta l'esperta saponificatrice Lucia Genangeli. La base è l'olio extravergine di oliva. Si lavorano poi con altri oli vegetali, e quindi olio di cocco, olio di mandorle dolci, a seconda delle proprietà, e si miscelano con la soda. Questo è il processo tradizionale della saponificazione. Bill scopre un fatto incredibile. Il sapone si fa con alcuni degli stessi ingredienti usati per le candele. Durante quella cena a casa dei Norris si diverte molto. Non solo è innamoratissimo di Olivia e intende sposarla al più presto, ma si rende conto che il suo futuro cognato è un giovane davvero simpatico e che ha con lui molte affinità. Il suo nome? James Gamble. James Gamble. Come dice il suo stesso nome, Gamble, che in inglese significa rischiare, scommettere, James è un giovane decisamente particolare. Ha una mente molto dinamica e una gran voglia di lavorare e di buttarsi a capofitto in qualcosa di nuovo. Prima che arrivino al dolce, i due hanno già fatto amicizia. Anche James, che adesso si fa chiamare Jim, benché molto giovane, ha una storia travagliata alle spalle. A Enniskillen, nel nord dell'Irlanda, gli inverni sono molto lunghi e si ha tanto tempo per pensare. E James Gamble di pensieri ne ha tanti, soprattutto ha voglia di fuggire via. La scuola è una sola nel suo paese, la Portora Royal School, dove in anni successivi siederanno negli stessi banchi di Jim due illustri letterati, Oscar Wilde e più avanti Samuel Beckett. Ma al giovane Gamble, l'Irlanda e soprattutto Enniskillen vanno troppo stretti. Appena può, anche lui prende una nave con destinazione Ellis Island. Sbarcato a New York, Jim non sa bene cosa fare. Deve trovarsi un lavoro e un alloggio. Sua madre, da sempre, gli ha trasmesso le sue passioni: cucinare, stare intorno ai fornelli, ma non solo. Fin da piccolino lui se la ricorda davanti a quegli enormi pentoloni a rimescolare il sapone. Jim sa perfettamente come si producono le saponette e decide di mettere a frutto questa sua esperienza. Si sposta a Cincinnati, dove in breve tempo mette su una piccola impresa che gli permette di vivere decorosamente e anche di sposarsi. Ha conosciuto una ragazza fantastica. Si chiama Elizabeth Ann Norris. Per Jim, che non ha nessuno dei suoi in America, i Norris diventano la sua famiglia. È fortunato, perché il suocero Alexander è un signore colto, brillante, pieno di idee e lo aiuta parecchio nella sua professione. L'attività di saponificatore va avanti abbastanza bene, ma presto una svolta decisiva arriva a cambiare radicalmente la sua esistenza e quella dei suoi cari. Sua cognata Olivia si è fidanzata e quella sera porta a cena Bill Proctor, il suo futuro marito. A Jim Bill sta subito simpatico, fa le candele, è un bravo ragazzo, un lavoratore. Mentre sono a cena tutti assieme, il suocero Alexander ha una brillante idea, una delle sue. Perché i due giovani non si mettono in affari insieme? Le loro attività prevedono un acquisto ingente di soda caustica, di grassi animali e di oli vegetali. Se uniscono le forze, possono risparmiare sugli approvvigionamenti, utilizzare l'uno gli scarti delle lavorazioni dell'altro e guadagnare di più. È un'idea grandiosa. I due ragazzi ci pensano su, ma non troppo. Si tratta di trovare uno spazio, un luogo dove poter produrre entrambi le loro cose. Bill le candele e Jim i saponi. Del resto, la voglia di lavorare non manca di certo a nessuno dei due. Whenever I'm down, I call on you, my friend. A helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. Listen. Destini incrociati. Se potessimo tornare indietro nel tempo, per l'esattezza al 12 aprile 1837, e ci trovassimo all'incrocio tra la Main e la Sesta Strada di Cincinnati, noteremmo un gran via vai. Due giovani uomini sono infatti intenti a traslocare i loro attrezzi da lavoro in un negozio che hanno appena aperto. Ha una luce sola e si affaccia sulla strada. È piuttosto piccolo, ma ha un ampio retrobottega adatto a realizzare un comodo laboratorio. I due fabbricano candele e sapone e hanno bisogno di spazio, grandi pentoloni e fornelli. Sono Bill Proctor e Jim Gamble. I due sono cognati, hanno sposato due sorelle, Olivia ed Elizabeth Ann. E il padre delle ragazze, un signore molto sveglio e intraprendente, ha consigliato loro di unire le attività, visto che tutti e due fanno fuori quantità incredibili di grasso animale, di soda caustica e di legna da ardere. Insieme possono ottimizzare gli acquisti e i loro affari possono decollare. In effetti le cose gli vanno subito bene. Il negozio si trova vicino al fiume Ohio, in un quartiere molto popoloso e brulicante di attività. Tanto che una mattina Bill si presenta da Jim con delle carte. È stato da un avvocato l'idea che gli è venuta di fondare una vera società. La sua vena imprenditoriale si fa sentire nuovamente, ma ora, a differenza di quanto accaduto a Hereford tra gli allevatori di pecore, ha di fronte a sé qualcuno che lo apprezza per la sua inventiva e non esita ad apporre la propria firma su quelle carte. È il 31 ottobre 1837 e nel retrobottega di un semplice negozietto di saponi e candele di Cincinnati nasce la Procter & Gamble. Come racconta il giornalista Michael Staskin del programma WatchMojo, che si occupa dei grandi imprenditori del passato, è la nascita di uno dei giganti dell'industria. Se non fosse stato perché sposarono due sorelle, Procter & Gamble non avrebbero mai incrociato le loro strade. La loro collaborazione fu estremamente proficua e portò l'azienda a creare quel grande colosso che oggi tutti conosciamo come Procter & Gamble. Ma Bill e Jim non sono solo due bravi saponificatori e candelai, sono molto di più. La prima prova di questa loro capacità imprenditoriale innovativa, e abbastanza rara per quegli anni, è il fatto che decidono quasi subito di crearsi un marchio. Va tenuto conto che in quegli anni c'è tantissimo analfabetismo ancora. Jim, la gente non sa leggere. Se sulla nostra insegna scriviamo Procter & Gamble, la maggior parte delle persone non saprà di cosa si tratta. Ma se creiamo un simbolo, qualcosa che tutti possano riconoscere, allora faremo strada. William Procter ha le idee molto chiare. È un venditore nato fin dai tempi della sua botteguccia di lane e trova sempre nel suo socio James Gamble un ascoltatore attento. Jim è riflessivo, analizza, pensa e poi agisce. Dopo alcuni giorni si presenta da Bill con un disegno. È un tondo all'interno del quale ha disegnato sulla destra la luna di profilo, raffigurata però come se fosse un uomo anziano con la barba, mentre sulla sinistra c'è uno sfondo azzurro tempestato da una miriade di stelle. Non c'entra niente né con il sapone né con le candele. È anche molto strano, ma è bello, semplice e a Bill piace. E così diventa il loro marchio, antesignano di quello che sarà il famosissimo Moon and Stars di Procter & Gamble. L'azienda decolla vertiginosamente. Nel 1859 le vendite annuali raggiungono la strabiliante cifra di $1 milione. Bill e Jim sono molto soddisfatti di quello che sono riusciti a ottenere. Entrambi hanno avuto dei figli che lavorano con loro in azienda e sembrano anche molto bravi. Insomma, i due amici e soci non potrebbero essere più contenti. Ma improvvisamente all'orizzonte si profila qualcosa di molto triste. La guerra civile. The stars above in heaven are looking kindly down. The stars above in heaven are looking kindly down. The stars above in heaven are looking kindly down on the grave of old John Brown. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Considerato il primo conflitto moderno della storia, la guerra di secessione americana è uno scontro di interessi tra il Nord e il Sud, in cui la questione della schiavitù rappresenta solo l'elemento scatenante. Non è un problema morale quello posto dalle popolazioni del Nord, ma economico. Se gli uomini politici desiderano la liberazione degli schiavi, che anche dopo l'emancipazione rimangono comunque sottomessi, discriminati e sfruttati, è perché essi consentono redditività al modello basato sull'agricoltura latifondistica del Sud, in contrasto con i processi di industrializzazione del Nord, che tende al legalitarismo. Ne è convinto Ron Paul, politico americano candidato alle elezioni presidenziali per il Partito Repubblicano nel 2008. L'abolizione della schiavitù è stata affrontata in tutti i paesi del mondo nella maniera in cui io ritengo che dovrebbe essere affrontata dai governi. Compri gli schiavi e li liberi. E questo è molto meno costoso che non far morire 600.000 americani in una guerra civile senza senso. In ogni altro paese del mondo si sono liberati dalla schiavitù senza una guerra civile. Le avvisaglie della guerra si fanno sentire sempre più e l'elezione del presidente Abraham Lincoln, decisamente antiproibizionista, fanno precipitare gli eventi. Bill e Jim si sentono prossimi a un grosso problema. Bill, sono preoccupato. Se scoppia la guerra e si chiudono le frontiere, non potremo più farci mandare l'essenza di pino dalla Louisiana. Non possiamo bloccare la nostra produzione, è impensabile. Dobbiamo fare qualcosa. Detto fatto, i due soci hanno una brillante idea. Subito dopo le festività natalizie, mandano i loro figli maggiori, William Alexander Procter e James Norris Gamble, negli Stati Uniti del Sud a fare scorta di tutte quelle materie prime che sono loro indispensabili per la produzione di saponi e candele. I due cugini, con la foga tipica dell'età giovanile e forti di ingenti somme di denaro fornitegli dall'azienda paterna, fanno incetta di ogni possibile essenza, anche sostanze mai utilizzate dai loro padri. Vogliono dare il loro contributo, innovare e fornire ai clienti nuove profumazioni sia per le candele sia per le saponette. Ecco perché si trattengono negli stati del sud molto più a lungo del previsto, spedendo a Cincinnati quantitativi enormi di essenza di pino, cannella, olio di mandorle dolci e ogni altra sostanza che gli solletichi l'inventiva. Stanno via per ben 3 mesi e infine tornano dalla Louisiana giusto in tempo. Il 12 aprile 1861 scoppia la guerra civile. Essere in possesso di quelle preziosissime materie prime, introvabili da subito in tutto il Nord America, fa sì che Bill e Jim sbaraglino la concorrenza in un soffio. Sono gli unici che possono produrre quantitativi ingenti di candele e saponette. I loro magazzini strabordano letteralmente di approvvigionamenti, a differenza di tutti gli altri produttori che dall'oggi al domani non possono più continuare a lavorare e devono chiudere i battenti. Una mattina, Bill entra nell'ufficio che divide con Jim con in mano una lettera. È raggiante. Al socio, che lo guarda con aria interrogativa, legge la missiva che viene direttamente dalla sede centrale del governo degli Stati Uniti d'America. Egregi signori, con la presente vi preghiamo voler concludere l'accordo che vi alleghiamo sulla fornitura di candele e sapone per l'esercito dell'Unione da oggi stesso. I quantitativi e le modalità di invio vi verranno forniti dal nostro emissario quanto prima. Gli ordini dall'esercito crescono in maniera esponenziale. Partito con 200.000 uomini nel 1861, al termine della guerra nel 1865 gli effettivi sono oltre 1 milione di soldati. È così che William Procter e James Gamble creano un impero, diventando i fornitori ufficiali dell'esercito federale. Gli Yankees di tutti gli Stati Uniti, per tutti e 4 gli anni in cui dura la guerra civile, si lavano con le saponette della Procter & Gamble e leggono le lettere delle loro fidanzate alla luce delle candele che portano il marchio Moon and Stars. Destini incrociati. L'epopea della saponetta. Si potrebbe intitolare così la storia di due giovani, William Procter, inglese, e James Gamble, irlandese, entrambi emigrati negli Stati Uniti all'inizio dell'Ottocento, che incrociano i loro cammini a Cincinnati perché sposano due sorelle. L'uno candelaio, l'altro saponificatore. Bill e Jim realizzano il loro sogno, creare un'azienda familiare. Le loro capacità imprenditoriali li portano ad avere un discreto successo, che si moltiplica enormemente con lo scoppio della guerra civile americana. La lungimiranza dei due cognati fa loro compiere un'operazione commerciale estremamente vantaggiosa. Alle prime avvisaglie del possibile conflitto armato, i due soci inviano i rispettivi figli ad acquistare nelle calde terre degli Stati del Sud le materie prime che utilizzano nella fabbricazione delle candele e dei saponi. Con lo scoppio della guerra di secessione in tutto il Nord America, la Procter & Gamble è l'unica fabbrica che possiede i requisiti per diventare fornitore ufficiale di candele e saponi dell'esercito federale. È il successo dei due soci, i quali però non si fermano, ma continuano a ricercare, attraverso l'innovazione, sempre nuovi prodotti da proporre ai propri clienti. Un modo di portare avanti l'azienda che la caratterizza anche negli anni a venire, come racconta A.G. Lafley, chairman e CEO di Procter & Gamble. L'innovazione caratterizza tutte le grandi aziende come la Procter & Gamble, che pongono il cliente al centro del loro mondo. Sono le esigenze stesse del cliente che fanno progredire l'azienda in un senso o nell'altro. Quando ci troviamo di fronte a una scoperta della tecnologia, noi ci domandiamo subito cosa possa significare dal punto di vista dell'utilità per i nostri clienti. È un retaggio che ci viene da molto lontano, dai tempi dei nostri fondatori. Quando la guerra civile finalmente giunge al suo termine, i soldati tornano alle loro case con tutte quelle abitudini prese mentre si trovano sotto le armi. Si tratta di molte centinaia di migliaia di persone che usano tutti i giorni i saponi e le candele Moon and Stars di Procter & Gamble. E si sa, le abitudini sono piacevoli da mantenere, soprattutto se nei negozi si trovano facilmente quegli stessi prodotti. Intorno al 1880, la Procter & Gamble lancia un sapone destinato a diventare famosissimo, un best-seller dell'azienda. Harley Procter, uno dei figli di Bill, lo chiama Ivory, avorio, prendendo spunto da un versetto della Bibbia. Tutti i tuoi vestimenti sanno di mirra, d'aloe e di cassia. Dai palazzi d'avorio la musica degli strumenti ti rallegra. Dopo oltre 130 anni, quella stessa saponetta può permettersi di dire oggi alle ragazze che possono lavarsi come facevano le loro bisnonne. Ed è un fatto assolutamente insolito, perché non è mai cambiata da quando la faceva con le sue mani James Gamble. Sul finire del secolo, i due amici devono affrontare una nuova sfida. L'arrivo dell'elettricità mette KO l'industria delle candele. I due non si perdono certo d'animo. Trasferiscono tutte le loro forze produttive su quello che ancora ritengono un business in fase di grande espansione. Ancora una volta ci vedono giusto. Con l'industrializzazione e un certo benessere globale, l'igiene personale e quella della casa diventano argomenti di attenzione da parte delle società di tutto il mondo. E loro si scervellano per creare sempre nuovi saponi per le rinnovate esigenze. Ma non solo. Bill e Jim sono persone intelligenti, perspicaci e con una visione del futuro molto chiara. Stanno vivendo un periodo di grandi trasformazioni e anche nel mondo del lavoro comincia a farsi strada una certa autocoscienza degli operai. In tutti i paesi industrializzati si verificano scioperi che nascono dalla volontà delle classi lavoratrici di non subire oltre lo sfruttamento incondizionato da parte dei padroni. I due cognati siedono alla loro scrivania, uno di fronte all'altro, e si guardano. È vero, i tempi in cui non avevano i soldi per portare le loro fidanzate a ballare sono lontani. Ora sono due industriali di successo, sono ricchi e famosi. Ma guardandosi, non possono fare a meno di ricordare l'uno attraverso il volto dell'altro quei tempi meno fortunati. Ecco perché Bill Procter e Jim Gamble sono i primi al mondo a istituire nella loro azienda qualcosa di mai realizzato sino a quel momento: la condivisione dei profitti. L'eredità di pensiero e la linea di comportamento di Bill e Jim continuano negli anni, anche dopo la loro morte. Prima i figli e poi i nipoti portano avanti uno stile inconfondibile basato sull'innovazione e la creatività. Un esempio grandioso di questo atteggiamento tenuto dalle generazioni successive è la creazione di un prodotto che segna l'ingresso della Procter & Gamble nel settore alimentare. Un grasso interamente vegetale che serve per friggere e per preparare dolci. Si tratta di una grande innovazione. In un'epoca in cui gli unici condimenti analoghi che si conoscono sono il burro o il lardo, entrambi di origine animale, nasce il famosissimo Crisco. Goldeny rich butter flavor Crisco has no salt or cholesterol, and since it's made just for cooking, it gives everything you fry a rich buttery taste no margarine can match. That's luscious. Butter flavor Crisco for more buttery taste every time. Acronimo di Crystallized Cottonseed Oil, cioè olio di semi di cotone cristallizzato, Crisco ha un sapore molto simile al burro, diversamente dalla margarina, anch'essa tutta vegetale ma decisamente più grassa. Crisco segna una svolta nella storia della Procter & Gamble. Non più solo saponi, ma anche alimenti. Negli anni successivi vengono lanciati altri prodotti di grandissimo successo, dai dentifrici ai pannolini per bambini. Ma nonostante i molti successi, i nipoti di Bill e Jim non possono prescindere dall'eredità che deriva dai loro nonni. Ecco perché, al di là della loro volontà di innovare e creare prodotti sempre diversi per i propri clienti, l'azienda continua a focalizzare il suo interesse sul sapone. I prodotti per l'igiene personale e per la casa costituiscono ancora e sempre il punto centrale dell'azienda. I tempi sono certamente cambiati rispetto all'Ottocento. Negli anni 30 e 40 la concorrenza si fa sentire e i nipoti di Bill e Jim cercano di pensare con la testa dei loro nonni. Cosa avrebbero fatto loro per far conoscere al maggior numero possibile di donne i loro prodotti? Le donne amano molto i radiodrammi, un genere estremamente diffuso. Con una parola molto attuale, viene deciso di sponsorizzare questo genere. E anche di più, visto il successo, nasce la Procter & Gamble Production, che dà vita a quelle che prendono il nome di soap opera. È un fenomeno mondiale che da allora non conosce crisi. La P&G Production sforna successi quali Sentieri, Dose Creek, Destini. Ron Moss, attore diventato famosissimo in tutto il mondo grazie a Beautiful, una delle soap opera di maggior successo di tutti i tempi, in una intervista del 2009 parla della sua sfolgorante carriera e anche delle difficoltà che la sua attività così impegnativa comporta. È da 23 anni che sono Ridge Forrester. Giriamo tutti i giorni, senza pause, tranne pochissime vacanze. Ma fin quando questo impegno mi permette di fare anche le mie cose, soprattutto la musica, che è la mia grande passione, per me va bene. È un bellissimo lavoro, un grande successo, è una vera soddisfazione. Chissà se William Procter e James Gamble potevano mai immaginare che un giorno le vicende della propria azienda sarebbero state legate indissolubilmente a quelle di Ridge Forrester piuttosto che a quelle del reverendo John Rutledge o di Riva Shane. Probabilmente no. Quello che è certo però è che i due cognati sapevano molto bene quello che avevano intenzione di creare, un marchio tutto loro che fosse sinonimo di innovazione e vicinanza con la gente, un nome che facesse ricordare ai loro familiari presenti e futuri, ma anche a tutto il mondo, il valore del loro attaccamento al lavoro e alla grande amicizia. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.